questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni sosso 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. 800 24 00 24. Franco Piantani da Giorgio De Luca, autore di questa puntata. Carissimo Pier, ti leggo un paio di messaggi che sono arrivati perché hanno già cominciato a scrivere gli amici al 349 238 6666. Pier, ci sei? Sì. Genta, buongiorno. Volevo dire a tutti i gufi che ieri è andata male. A parte che non c'è Genta, Genta torna lunedì, però noi siamo qui scatenati, gli juventini contro i gufi, contro tutti quelli che ieri hanno tifato per il Lione. Gli è andata male? Gli è andata male, sì. Beh, ma insomma, dopo l'1-0 dell'andata era c'era un'ottima probabilità. Mi sembra che ieri sia stata una buona Juve, non perfetta, ma insomma l'importante secondo me in Europa League è fare come ha fatto il Chelsea l'anno scorso, cioè magari non essere sempre a mille. Nessuno nasconde il fatto che sia una competizione minore rispetto alla Champions, però bisogna andare avanti, bisogna trovare le soluzioni, quel po' di turnover che può essere utile. Ieri mi pare che tutto sommato tutto sia andato per il verso giusto, anche dopo l'1-1 la squadra non si è disunita. Sì, c'è stato qualche momento un po' di imbarazzo, sì, sotto ritmo, di tentativo di controllare, sì, che però lasciava aperta la qualificazione, appesa a un gol fino in fondo. Però ho sempre avuto la sensazione che la Juve ce l'avrebbe fatta, insomma, sinceramente, quindi non ho avuto. Sì, Juve che era superiore al Lione e quindi non, insomma, a logica non poteva andare diversamente. Però carissimo Pier, visto che la parola gufi è stata ampiamente sdoganata, noi oggi siamo qui per fare l'elogio dei gufi. Io lo dico a tutti gli juventini che giustamente questa mattina se la sono presa con tutti gli altri, lo dico agli altri che ci sono rimasti male, che sono pronti adesso a gufare per tifando il Benfica, tifando una Spagnola nell'eventuale finale. Noi siamo qui e oggi facciamo l'elogio dei gufi. Ci hai portato qui oggi tantissimi gufi di tutti i tipi, tutti i materiali. Iniziamo subito a parlare quindi di questi primi che vediamo qui. Anche ieri parlavi dell'Italia, di riportare l'Italia avanti anche per questioni di ranking di cui parlano tutti. Però ti chiedevo se in questi giorni oggi sentivi più tifosi o più gufi. Sappiamo benissimo come funziona l'Italia, o sei juventino o sei anti-juventino, quindi secondo me non gliene frega un cavolo di niente a nessuno del ranking e sperano tutti che la Juventus vada fuori, ecco. Dalla passione legata all'ornitologia, quindi ai gufi vivi, quelli che vivono nei boschi, quindi anche nelle città, mi sono avvicinato, diciamo, anche alla passione del collezionismo, al punto tale che oggi, dopo 25 anni, sono riuscito addirittura a coronare un piccolo sogno e ho aperto addirittura un unico negozio al mondo di gufi. Sei anche tu dell'idea di Conte che gli italiani, noi juventini, gufino contro la Juve nonostante il discorso del ranking UEFA? Insomma, avete una responsabilità in più in questo senso? Infatti ce ne prendiamo tutte le responsabilità, visto che siamo unici italiani, però io credo che si dovrebbe tifare per le squadre italiane in Europa, perché sono tanti anni, credo che ho sentito 6 o 7, che nessuna squadra italiana si è presentata alle semifinali di qualche partita in Europa, perciò bisogna tifare e fare qualcosa per poter presentarsi in più. Hai sentito come ha lottato ieri Pier Conte, poi oggi Nedved? Vi ricordo, per chi non lo sapesse, Europa League, Benfica-Juventus la semifinale, l'altra semifinale sarà il derby spagnolo tra Valencia e Siviglia, mentre in Champions League Real Madrid-Bayern e Atletico Madrid-Chelsea, ma avremo tempo per parlarne. 800 24 00 24, oggi qui spazio per tutti i gufi delusi o anche per i juventini che ce l'hanno con i gufi anti-juventini. Che voto dai ieri a Conte, Pier? No, innanzitutto voglio dire che non è che quando le squadre italiane vincevano all'estero non c'erano i gufi, ci sono sempre stati, al cuor non si comanda e ognuno fa quello che gli pare. Poi è ovvio che che c'è un interesse collettivo. Io per esempio non ti nascondo che sto tifando da morire per una finale adesso al 2:35, sentiamo anche Trevisani, ci siamo appena sentiti e insomma i telecronisti tifano da pazzi perché la Juve vale in finale, giochi una grande finale, per motivi ovvi, no? di interesse, di bellezza, di recupero di posizione in calcio internazionale, per poter vivere e raccontare certe partite. Quindi tu gufi per una finale Juventus Valencia o Siviglia? Come gufo? Io no, spero gufi, che attento perché poi c'è chi dice, chi augura, rischia di portare sfortuna, oggi siamo nel paese dei gufi. No, io tifo per la finale italiana innanzitutto, ci manca, per il calcio italiano, e poi perché molto prosaicamente una finale della Juve in Europa League diventa un evento clamoroso. Poi non so se la farò io, magari la farà Sandro Piccini, però in ogni caso magari si libera uno spazio per una finale di Champions, cioè è proprio un fatto di ma poi è un piacere insomma raccontare certe partite, certe vivere. Sì, certe però è un emozioni. Piacere Piera anche essere però politicamente scorretti, dire io la penso così, che avevano ragione gli interisti, i milanisti, quelli che ieri tifavano contro la Juve, e secondo me ha ragione anche Conte con quello che ha detto. Saluto Guido Vacciago, inviato di Tutto Sport, ciao Guido. Ciao, che ieri era lì anche lui a contare, credo, al Juventus Stadium i gufi. Noi però abbiamo il traffico. Perché a differenza di molti altri tipi di animali, devi pensare che i gufi, ad esempio, rispetto al merlo, al falco, all'apoiano, all'aquila, hanno gli occhi frontali, per cui ricordano molto anche la nostra, la forma, diciamo, dell'uomo. Quindi sono degli animali che evocano delle sensazioni spesso positive. Tutti convocati. 800 24 00 24, carissimo Pier, lo chiediamo a Guido Vacciago quanto se l'è presa davvero Conte o quanto sta un po' interpretando una parte quando lo abbiamo sentito, dice tanto agli altri non fregava niente, sono tutti gufi, non hanno a cuore il ranking UEFA, ci sono anche tanti che ci stanno scrivendo. Guido? Ma che prendersela, è contentissimo perché questo è pane per la sua per i suoi meccanismi psicologici con i quali carica la squadra, con i quali carica anche i tifosi. Dopodiché poi dice una grandissima verità: in Italia è impossibile rimanere neutrali, in Italia è impossibile razionalizzare il tifo, ma per fortuna, dico io, perché se non si scade nella violenza, se non si scade nella volgarità, io credo che, quindi fermo restando questi punti che devono essere dei capisaldi molto solidi, ma tolta la volgarità e tolta la violenza, santo cielo, io credo che sia innaturale per un interista tifare per la Juve, come è innaturale per uno juventino tifare per l'Inter. Pier, ma secondo te ai giocatori frega qualcosa questo giochino psicologico dei gufi delle altre squadre, oppure è tutta materia da bar sport? Ai giocatori secondo me non interessa le tifosi della squadra avversaria, ai giocatori mai può interessare il sentirsi squadra, il sentirsi soli contro tutti in certi momenti, magari criticati. Insomma, sono meccanismi psicologici che hanno funzionato, anche in circostanze clamorose, ad esempio nel 2006 con Marcello Lippi. Diciamo, dinamiche di questo tipo possono far bene. Il fatto che il giocatore della Juve possa dare per scontato che il 99,9% degli interisti lo stanno gufando, secondo me è una roba normale che rientra. Ma gli piace anche così, perché accresce il piacere della vittoria. Anche perché mi sembra, Guido, Pier, che la Juve sia un po' stanchina, l'avevamo già visto in campionato anche ieri. Peraltro probabilmente non ha mai rischiato davvero seriamente l'eliminazione con Lione, ma non è stata la miglior Juventus. Secondo me Conte se l'è anche un po' presa con gli juventini. Vi faccio sentire questo pezzettino qui del dopo partita. Conte: poco appoggio alla squadra da parte delle tribune, questo non deve accadere perché il tifoso deve stare sempre vicino alla squadra in tutti i momenti, non solo nei momenti belli, anche quando si soffre, nella sofferenza. Quando ciò non accade, ecco, è importante che ci si volti indietro, si guardi 3 anni fa, che magari si stava a casa a mangiare pizza e birra e guardare gli altri che giocavano. Pier, non benissimo la Juve ieri, almeno per un pezzo di partita. Ma sì, ma non benissimo, mi sembra in limiti assolutamente fisiologici. Cioè, io dico la verità, mi sembra che ci sia molta letteratura sul presunto calo di forma della Juve. Per me conta i fatti, la Juve ha sbagliato la partita sola recentemente contro il Napoli, si è sbagliato in maniera clamorosa contro una grande squadra, comunque una squadra che non è costante come rendimenti, ma che si sa accendere, l'ha dimostrato spesso in questa stagione, in grandi notti. e quindi questo secondo me è indiscutibile. Poi per il resto sono chiacchiere. Guido, c'è qualche segnale di stanchezza? Perché è vero che ha sbagliato solo la partita col Napoli, ma anche prima non correva, insomma, come prima, non correva come a gennaio, come a febbraio, come fisiologico che sia, ma c'è un finale di stagione che presenta partite ogni 3 giorni, Guido. Ma no, io credo che sia un discorso di singoli, perché se noi andiamo a vedere la partita che ha fatto ieri a Samoa è incredibile. E allora chi è che non sta bene? Lunedì ha fatto Lichtsteiner, io credo che siano Pogba e Vidal, e guarda caso sono i due giocatori che in questo momento hanno effettivamente dei problemi fisici o hanno anche un piccolo calo dal punto di vista atletico, e sono i giocatori che di solito davano più spettacolo. Ecco perché l'impressione generale sia di una squadra stanca. Io non credo che sia una squadra stanca, però è ovvio che se i due giocatori che rendevano più spettacolare e più intenso il gioco a centrocampo, ovvero Pogba e Vidal, sono calati, si ha questa impressione generale. Ma io credo che l'efficacia della Juve sia rimasta la stessa, ecco, forse da un po' meno spettacolo, da un po' meno nell'occhio all'inizio della stagione con Pogba e Vidal al massimo della condizione, era più frizzante, però rimane una squadra molto solida. La Juve ha avuto due mesi clamorosi dopo il famoso schiaffo di Firenze, 2 o 3 mesi nei quali veramente triturava qualsiasi avversaria. Per il resto, all'inizio della stagione e in questa primavera si sta gestendo. Però è una signora gestione questa qui, insomma, cioè, non c'è un dato statistico di medio periodo che in questo momento vada contro la Juve. Cioè, se tu prendi un gruppo di partite, di 6-7 partite, guardi la classifica delle ultime 7-8 giornate, scopri che la Juve è la squadra che ha fatto più punti di tutti. In Europa League comunque va avanti, ripeto, secondo me con l'intelligenza. Pure il Chelsea l'anno scorso è arrivato alla finale evitando il supplementare all'ultimo minuto contro la Steaua, non giocando sempre grandissime partite, perché quello rientra nella logica della gestione di una stagione molto intensa. Io ci vedo questo, non vedo segnali al momento di grande preoccupazione. Mi sembra però che Conte ne sia pienamente consapevole, che Conte ne sia pienamente consapevole e si sia accorto che è arrivato il momento di toccare anche tutte le altre corde. Saluto Nanu Galderisi, allenatore dell'Oglianense. Ciao Nanu. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio, che la domenica di Pasqua, se non sbaglio, dovrà vedersela col Benfica. Allora, vi faccio sentire che cosa ha detto oggi Nedved a sorteggio caldo. Vogliamo onorare Europa League con migliori prestazioni. Questo dovrebbero fare tutti e cercare di arrivare fino in fondo. E Billy lo sa quanto sia difficile farlo insieme, andando avanti in campionato italiano, che ti toglie tantissime energie e quelli magari ti mancano poi in Europa. Però noi, devo dire che Antonio con la squadra stanno facendo veramente un grandissimo lavoro da apprezzare, perché stanno gestendo delle forze in maniera impeccabile. Nanu, deve temere o no il Benfica la Juventus? Intanto mi complimento anch'io con Conte, mi complimento con la Juventus in generale, a parte che è la mia seconda casa, la conosco perfettamente, la voglia che ha di vincere questa società, come cresci, come vivi in quell'ambiente, con quella maglia addosso. È difficile, è una partita molto complicata. Io speravo di beccare il Benfica nella partita secca a Torino, perché credo che andata e ritorno questa è una squadra molto molto rognosa, è una squadra che cerchiamo di sfiancare un po' prima noi, 3 giorni prima, e noi abbiamo assolutamente bisogno di punti, abbiamo una classifica che ha bisogno assolutamente di fare qualche risultato importante. E questa è una squadra che gioca molto bene, ha una grande personalità, sia in casa che fuori casa, è molto compatta, a me piace molto, credo che sia forse la squadra che mi ha stupito di più per intensità, per qualità e anche per il modo di giocare. Un pochettino si abbassa il centrale difensivo, il centrale di centrocampo, giocano con gli esterni molto alti, sono molto molto propositivi e hanno grande qualità in fase realizzativa. Non sarà una passeggiata. Pier, non dimentichiamo che il Benfica quest'anno ha battuto il Paris Saint-Germain in autunno nel girone di Champions, ha buttato fuori il Tottenham quando poi è sceso in Europa League. Credo che la Juve convenisse pescarla in finale in una partita secca e poi giocata in casa, come accadrà eventualmente nella finale dello Juventus Stadium, anche se mi pare di aver capito non ci sarà Salvio, che ieri si è rotto il perone e quindi ha chiuso qui la sua stagione. Questo può essere essere un vantaggio, però Pier non sarà semplice, non è stato fortunato. Ciao Nano, innanzitutto. No, grandissimo, scusami, non... Ciao Pier, Luigi, ma noi siamo pieni, ciao, di sorprese. Sì, sì, sì, mi fa molto piacere. C'è anche Guido Vaciago, così allarghiamo il giro. Siamo, prego, Pier. Siamo una grande famiglia, siamo venuti fin qua, siamo la madre e la figlia, come cantare Grigoli. No, mi sembra onestamente che sia l'avversario più forte che poteva capitare alla Juve, sicuramente superiore a Siviglia e Valencia, e penso che sia la squadra, il Benfica migliore, vorrei chiedere anche a Nanu, degli ultimi anni. Lo scorso anno l'abbiamo commentato in finale, arrivò vicinissimo all'impresa, poi c'è questa maledizione di Bela Gutman delle finali che Benfica perde sempre. Quest'anno sta dominando il campionato, ha messo una distanza siderale dallo Sporting Lisbona e dal Porto. Mi sembra, insomma, che mi sembra difficile che quest'anno non riesca a vincere cose importanti questo club. Il campionato lo vince sicuro. Mi sembra una squadra molto più solida rispetto al passato. Non so che cosa ne pensa Nano. Assolutamente sì, ha detto perfettamente. Io è una squadra che seguo moltissimo perché mi piace molto la mentalità e la qualità. Cioè è una squadra che ha molta qualità, gioca con questi tre giocatori dietro due punte, con un centrocampista Feisha molto bravo ad abbassarsi in mezzo a Guerri e Luisao, alzano molto gli esterni, è un po' come fa la Juve. Ma quello che mi piace più di questa squadra è che ha una mentalità e ha una solidità incredibile, e poi negli ultimi 20 metri è devastante perché ha dei giocatori che mi stupiscono sempre di più, questo Rodrigo, ma anche questo Cardoso che gioca poco in campionato ma gioca molto nell'Europa, Salvio molto veloce, Gaetan, sono tutti giocatori che sanno dare tutto il meglio di se stesso rispettando un'idea di gioco molto importante. È un peccato aver beccato il Benfica, perché sinceramente la Juve se la deve sudare, come d'altronde tutte le partite la Juve lo sa, però adesso sono curioso di vedere questo Benfica che qui sta distruggendo il campionato e sta facendo delle cose strepitose anche in Europa, se è all'altezza di una squadra come la Juventus, che io ritengo la più forte delle quattro. Comunque sono due squadre che vengono dalla Champions, a proposito anche di discorsi fatti recentemente da Mourinho sull'utilità di questi ripescaggi a metà stagione. Nanu, velocissimo, chiede un amico se la Juve è la seconda casa, qual è la prima? No, la prima casa è casa mia, no? Nel senso che io sono arrivato alla Juventus quando avevo... Sì, è quella per cui paghi l'IMU, per intenderci. Poi la seconda è la Juventus. La Juventus mi ha insegnato tante cose. Credo che quello che si vede anno per anno in questo momento, tutta nella storia della Juventus, è proprio la famosa frase di Boniperti: qui non si deve vincere, qui c'è solo una cosa, vincere e basta, no? Sì, vincere tutto. Grazie Nanu. Un abbraccio. Grazie a Nanu Calderisi, saluto anche Guido Vaciago che ringrazio. Ciao Guido. Ciao, buongiorno a tutti. Pier, stai lì, borsa. Adesso è l'appuntamento con la borsa. La borsa c'è, ci sentiamo tra poco. Tutti convocati. Carissimo Pier, c'è chi l'ha presa veramente male ieri sera degli anti-juventini, c'è chi scrive: sempre stata considerata l'Europa League una coppa di serie B, per una volta che c'è la Juventus sembra la coppa del mondo, c'è chi scrive: non succede nulla per caso, uscita dalla Champions, finale UEFA Torino, questo significa che la coppa la vince la Juventus, c'è anche chi dice: sottolineate il fatto che la prima si gioca a Lisbona, la seconda a Torino, l'UEFA vuole a tutti i costi che ci siano i padroni di casa in finale, perché poi oltre ai gufi ci sono i dietrologi, Pier. Sì. Il gufo dietrologo è una specialità ornitologica molto particolare. Sì, mm. C'è invece chi scrive, secondo me questo è un dato interessante, Michele da Modena: il dato più preoccupante per la Juve è che tra Champions ed Europa League solo con il Trabzonspor non ha preso gol in casa, e io aggiungo: il gol che ha preso ieri ricorda tanto quelli che alla fine sono costati l'eliminazione, cioè quelli presi con il Galatasaray a Torino. Guarda, per ora secondo me la Juve ha gestito l'Europa League con un medio livello di attenzione, ha fatto poi per la partita di ritorno con la Fiorentina magari un extra sforzo, ma in generale l'ha vissuta con l'atteggiamento di chi va, fa prestazione, vediamo che succede, facendo un po' di turnover, un po' di rotazioni. Col Benfica secondo me servirà un'attenzione particolare, proprio per tutti i discorsi che facciamo prima, perché il Benfica per me è un'ottima squadra, è veramente un'ottima squadra, e quindi il rischio vero c'è. Il Benfica è nettamente, cioè che abbia 15 punti di vantaggio sul Porto che ha eliminato il Napoli, è una squadra nettamente diversa dal Porto, nettamente diversa dallo Sporting Lisbona, è una squadra che poteva andare avanti anche sicuramente in Champions. Quindi lì, secondo me, se ci vai con l'approccio così, rischi, qualcosina rischi. Detto questo, secondo me se la Juve fa prestazione è la favorita di questa serie. Sì, ha le carte in mano per andare in finale. Titolo di O Jogo, principale portale sportivo portoghese in questo momento, la Juventus, l'avversaria más temida, cioè l'avversario più temuto, perché è andata male anche al Benfica, non solo alla Juventus. Sì, per onestà va detto che O Jogo, come dicono i portoghesi, è il quotidiano sportivo di Porto, e vale quindi esattamente la stessa dinamica che esiste in Spagna fra AS e Marca da una parte, che sono i due quotidiani di Madrid, rispetto ai due che sono ovviamente Sport e Mundo Deportivo di Barcellona. Insomma, diciamo che si, ecco, a proposito di gufi, si gufa proprio in maniera senza ritegno. Sì, però mi sembra questa una lettura abbastanza oggettiva di quello che è successo al Benfica. Massimo dalla provincia di Siena. Massimo, buon pomeriggio. Buonasera. Prego. Saluti a voi, a Radio 24, a tutti gli ascoltatori. Grazie. Allora, io vi sono impresso di messaggi, mi firmo sempre Max, Massimo, sì. San Gimignano. E volevo dire solo una cosa, siccome non mi intendo di calcio, però sì, lo seguo quando mi capita di vedere le partite, fa un discorso semplicissimo. Allora, il fatto di vedere un film, è un lapsus perché sarà quello che dirò dopo, il fatto di vedere una partita, cioè non è una cosa in cui io non ho una squadra del cuore, però a me piace vedere le partite perché piace vedere il bel gioco. Sì. Quindi quando vedo una partita... Sì, quindi sei divertito o no ieri, Massimo? Ti sei divertito o no ieri, Massimo? Sì, mi sono divertito. Però volevo dire, cioè, è un concetto banale, banalissimo. Io se si parla di fisica o matematica... Sì, però dillo il concetto, perché fra un po' c'è traffico. Prego, Massimo. Sì, e tra un po' io ho finito la batteria del cellulare. Sì. Quindi dico che... I gufi non mi vanno assolutamente bene, perché nel senso che se è una bella partita, non è perché uno è tifoso di una squadra. Sì, l'importante è che sia uno spettacolo. Grazie, Max, Pier. Ma un tifoso dell'Inter, una partita fra Benfica e Juve, ma gli sta più simpatica la Juve o il Benfica? Gli sta più simpatico il Benfica. Esattamente come la sera della finale fra Inter e Bayern a Bernabeu, tifoso della Juve, mediamente, chi ti sta più simpatica, l'Inter o il Bayern? Sicuramente il Bayern, ma non c'è niente di male. Non c'è e invece ci sono anche quelli che la pensano diversamente. Andrea da Torino, io sono un tifoso granata, abito a Torino, sono contento che la Juve possa essere vincente in Europa. E un altro amico interista che ha detto: io gufo solo contro il Milan. Sono tutte cose nobili, cioè voglio dire, sono tutte cose nobili. Poi c'è anche il famoso interesse nazionale, però ripeto, non è che negli anni in cui dominavamo in Europa e nel mondo era perché non c'erano i gufi, non è che sono i gufi che fanno sì che noi facciamo brutte prestazioni. Invece volevo dire, a proposito di quello che si diceva prima, adesso la fare tanto lunga sull'Europa League, noi sono anni che sogniamo di farla lunga sull'Europa League con delle squadre italiane che vanno avanti. E noi difatti eravamo arrabbiati a gennaio quando Conte la snobbava e sbagliava, finalmente l'ha capito. Abbiamo visto squadre italiane anche modeste fare turnover in Europa League nella storia, perché tale era il nostro livello di mancanza di cultura rispetto a questa competizione. Insomma, viva Dio se c'è una squadra italiana che può giocarsela fino in fondo, insomma. È la Coppa UEFA, si chiama Europa League, ma è la Coppa UEFA, è fisicamente la stessa coppa per la quale negli anni 70, 80, 90 uno avrebbe dato un braccio, un piede, perché è la Coppa UEFA. Sì, fra parentesi, non è vero nemmeno che sono così bassi gli introiti, perché la forbice si sta riducendo. Ma poi c'è l'indotto, Giovanni, c'è assolutamente. Per vedere i giocatori, un giocatore che arriva in finale di Europa League, soprattutto per le squadre che hanno giocatori emergenti, la Juve li ha tutti praticamente o quasi famosi, ma comunque metti in evidenza dei giocatori che se rimangono soltanto confinati nel tuo orticello nazionale, sicuramente sì, famosi, però Pier, a parte Buffon, Pirlo, quella generazione lì, non ce ne sono di che hanno alzato trofei internazionali importanti, a partire da Conte, che dovrebbe essere il primo a inseguire questa Europa League con il sangue negli occhi. Antonio dalla provincia di Salerno. Antonio, buongiorno a tutti. Buongiorno, prego. No, parlavo perché volevo fare i complimenti a Pierluigi, che io sono d'accordo con lui per il fatto che a correre non si comanda, cioè ognuno è libero di avere le sue simpatie. Io sono tifoso della Juventus e non voglio il tipo di nessuno, non mi interessa, come l'avete citato voi il fatto del Bayern di Monaco. Io quando ho vinto l'Inter con il Bayern di Monaco è stata una giornata tristissima per sì, me, quindi... una giornata di lutto. Sicuramente, io ero proprio il primo sostenitore del Bayern di Monaco, poi purtroppo quell'anno per me Juventino è stato un anno bruttissimo che ho rimosso. Poi un'altra cosa, volevo parlare del caso destro. Sì. L'altro giorno si parlava del paradosso, ma io penso che il paradosso sia il fatto che destro non sia uscito da quella partita e abbia fatto 3 gol. Poi è stato squalificato, qualcuno con la retologia spiccia di sempre si dice che è perché per parire la Juventus. Ma noi Juventino di destro, che ne è squalificato o meno, non ci interessa nulla. Che lo mettessero anche senza diffidare, senza squalificarlo. Deve aspettare una settimana, deve aspettare una settimana, poi ci sarà l'appello e vediamo cosa succede. Secondo me il fatto che destro abbia finito quella partita non è un paradosso, è un errore dell'arbitro, poi tutto il resto del dibattito effettivamente è forse un paradosso. Pier, sentiamo anche Angelo da Torino. Angelo. Buongiorno a tutti, buongiorno, grazie prego. Di avermi convocato innanzitutto. Io ieri sera la partita non ho voluto vederla perché sapevo già che il tasso tecnico e di qualità avrebbe portato la Juventus a vincerla. E la quindi lei è un gufo? Io sono del Toro, assolutamente, quindi conseguentemente sono profondamente anti-juventino. Del resto su queste cose vado abbastanza d'accordo col presidente Andrea Agnelli quando mi allineo alla sua posizione dicendo che e lui è contento quando l'Inter perde, io sono contento e soddisfatto. Sì, ma l'ha detto anche Elkan, no, Pier, che sì, spera che l'Inter vada avanti a perdere. Benissimo. Ma voi pensate che in Inghilterra, io seguo su Twitter alcuni capi tifosi dell'ARPA, un paio molto divertenti, molto simpatici dell'Arsenal, e l'altro giorno poi ho rivisto i tweet al gol di Evra, c'era gente che si voleva suicidare. Fa parte della vita, non è che siamo, non dobbiamo sentirci in colpa o sentirci un popolo di serie B per questo. Poi se riusciamo a avere la lucidità di capire che il calcio italiano, più cresce una squadra e più possono crescere le altre, più ci possono essere delle opportunità, questo sì, cioè questo sembra un discorso intelligente e razionale, ma nessuno chiede al tifoso dell'Inter di scendere con la scarpa della Juve di fronte al Benfica o viceversa. Sì, nessuno chiede di sostenere che il tifo sia razionalità e a volte anche intelligenza. Traffico, Pier. Mi spaventa la loro esperienza europea che hanno acquisito negli ultimi anni, sicuramente la rabbia che avranno dentro di aver perso la finale dell'anno scorso, quello sicuramente sarà una motivazione in più per loro, ma credo che saranno le partite molto equilibrate. Decidere saranno piccoli particolari, visto che siamo, credo, due squadre più forti che ci sono adesso rimaste. Tutti convocati. Ho detto ai giocatori, enjoy, il giocatore che l'anno scorso in questo momento giocavano contro Rubin Kazan in Europa League. Rimpallo poi a Spiliqueta, Dembaba! Dembaba! Al 41esimo minuto e mezzo, sul pallone vacante, Dembaba probabilmente porta il Chelsea in semifinale. Entra Schürrle e Schürrle segna, entra Dembaba e Dembaba segna. Questo si chiama culo. No! Ho trovato un gruppo di ragazzi straordinari che lavorano molto bene, che vanno dietro non di quello che dico io, sino di quello che ha bisogno la squadra. Ancora attenzione, possibilità per il destro, palo clamoroso di Adrian Lopez, non è finita, palo dall'altra parte, deve scalare Bartra, in pressione sul lavoro da parte di Villa, cross profondo, secondo palo, altra sponda e c'è l'1-0 ed è tutto regolare! E con cuore, con umiltà, con lavoro e soprattutto sapendo bene cosa fare, siamo riusciti a far bene. Io personalmente avrei dato un rene per vedere la sfida di Mourinho contro Real Madrid, contro gli Hijo de Puta di quello spogliatoio lì. Ci dobbiamo accontentare, carissimo Pierre, della sfida tra il Ciolo e The Incredible One, José Mourinho. Saluto anche Riccardo Trevisani, telecronista di Sky. Ciao Riccardo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, magari la vedrai in finale. Ce l'hai fatta, in ritardo di 12 minuti, dov'eri? No, siamo noi che l'abbiamo chiamato in ritardo, Pier. Richiamate subito il parlo. Tu sai che le scalette sono liquide, sono materia liquida come il calcio, no? Quindi l'abbiamo chiamato noi in ritardo, anzi ci scusiamo in diretta. È un bel accontentarsi, Riccardo, poi parliamo di Bayern Real Madrid. È un bel accontentarsi Mourinho contro Simeone. Sì, è un bel accontentarsi, anche perché stanno compiendo dei veri e propri miracoli sportivi. E naturalmente rispetto al livello della rosa, dell'organico, della qualità di Real Madrid e Bayern hanno qualcosina in meno, ma questo qualcosina in meno lo aggiustano i due allenatori. È chiaro che a livello di partita spettacolare è più spettacolare Real Bayern, però a livello di motivazione, di carica, anche di botte, perché parliamoci chiaro, poi l'Atletico è una squadra che sa anche picchiare, io credo che ci divertiremo molto e credo che l'Atletico con Simeone abbia fatto dei miracoli nel corso di questi anni, partendo da una vittoria in Europa League, e credo che Mourinho dopo quella col Porto stia tirando fuori la sua miglior stagione da allenatore, forse addirittura superiore a quella con l'Inter, perché l'Inter era più forte, era più squadra fatta, veniva da scudetti vinti rispetto a questo Chelsea. Intanto Pier, comunicato dell'UEFA, altro che accordi tra club, Courtois dovrà giocare, e se il Chelsea non lo fa giocare va incontro a delle sanzioni. L'amministratore delegato del Chelsea ha già spiegato che Courtois potrà giocare, che l'Atletico è libero di fare quello che vuole, durata 24 ore, ma insomma si è chiusa questa cosa che aveva poco senso, anche se capisco, e l'avete spiegato ieri, che in Spagna e in Inghilterra si faccia, però credo che l'UEFA non potesse accettare un accordo privato tra le parti per non far giocare il portiere titolare dell'Atletico, uno dei due uomini più importanti della squadra di Simeone. Sì, l'UEFA è chiaro che se un giocatore è in lista UEFA e non è squalificato può giocare, quindi dal punto di vista formale non c'erano dubbi neanche ieri. La notizia di oggi secondo me è specialmente del Chelsea, cioè di fronte al comunicato dell'UEFA che precisa questo concetto, il Chelsea dice va bene, e questa è la notizia vera di oggi, perché è ovvio che per l'UEFA, cioè non è che l'UEFA può far applicare questa norma, anzi l'UEFA ha l'interesse che Courtois possa giocare per un discorso proprio di valore, insomma sarebbe una schifezza, diciamo. Quindi sappiamo che l'anno prossimo c'è un portiere libero per un prestito, visto che probabilmente poi difficilmente il Chelsea, ecco. È giusto Riccardo, no? Farà di nuovo accordo con l'Atletico Madrid, però insomma sarà in campo in queste due partite. Bayern Real Madrid invece, io dico la mia Riccardo, se doveva trovare un momento il Bayern per pescare il Real Madrid, questo è il momento giusto, soprattutto se all'andata come sembra mancherà Cristiano Ronaldo. Beh, non c'è dubbio, è stata imbarazzante la figura del Real Madrid in Champions League, un po' per sufficienza, un po' per supponenza, un po' per l'assenza di Cristiano Ronaldo, che comunque vale a livello carismatico mezza squadra, ma perdere contro questo Borussia Dortmund senza mezza squadra e in una situazione in cui parti in vantaggio 3-0 è francamente stato brutto. Io auspicavo per la bellezza della Coppa che fosse la finale tra Bayern Monaco e Real, perché sono comunque secondo me le due squadre migliori, lo dicevo prima, a livello di qualità, però sarà anche bello vedere due volte questo doppio confronto. Ancelotti esperto in Champions League, non possono prendere come favorita però il Bayern Monaco, perché comunque mi sembra la squadra in assoluto più completa, poi l'abbiamo visto che in Champions non sempre vince la squadra più completa. Pier, tu sei davvero convinto che sia la finale anticipata? Guarda, io sono contento. Primo perché, come diceva Riccardo, la vedremo due volte questa partita da sogno, e secondo perché avremo sicuramente a quel punto in finale un underdog, come dicono gli inglesi, cioè una sfavorita, una favola, una storia letteraria, e quindi mi piace di più, la finale mi piace di più, insomma, piuttosto che una partita assolutamente bilanciata, mi piace l'idea che sia o l'Atletico Madrid o il Chelsea a cercare di sovvertire l'ordine costituito, anche perché in una partita sola questo spesso succede, anche perché comunque siamo di grandissime squadre, per cui di partite assolutamente giocabili, e quindi io sono molto contento di questo sorteggio. E dal punto di vista invece della sfida fra Bayern e Real, io penso che il Bayern sia favorito in questo momento. Sì, anche ritorno all'Allianz Arena, che comunque regala qualche vantaggio. Ho l'impressione che i medici del Real faranno di tutto per rimettere in piedi Cristiano Ronaldo. Ho l'impressione che l'anno prossimo la spagnola manderà una squadra ai preliminari di Champions di peso, perché forse Ancelotti in queste settimane, non so, dovrà anche fare, Riccardo, tu segui spesso la Liga, una riflessione profonda sulla necessità, se inseguire o no i due posti di Barcellona e Atletico Madrid che si giocano la Liga, o se invece concentrare le energie su questa semifinale. È molto difficile risponderti, perché manca ancora un Barcellona-Atletico Madrid alla fine della stagione, che potrebbe cambiare tutto, tra l'altro all'ultimo. Esatto, in favore del Real. Se però adesso è un bel bivio per Ancelotti, eh? È un grosso dubbio da gestire. Assolutamente. Grazie Riccardo Trevisani di Sky. Ciao Riccardo, grazie. Grazie a voi. Ciao, Pier, ciao. Ci sentiamo domenica? No. Sì, no, volevo dire che oltretutto c'è anche mercoledì la finale di Coppa del Re contro il Barcellona. Sì, periodo difficilissimo per Ancelotti a livello di energie. Esatto. Pier, ci sentiamo domenica. Assolutamente. Con te dalle 18, con tutti gli altri invece dalle 17, noi però torniamo subito dopo il GR. Vogliamo onorare Europa League con migliori prestazioni, questo dovrebbero fare tutti e cercare di arrivare fino in fondo. La Honda in questa pista riesce a chiudere meglio le traiettorie, tagliano sul cordolo interno, stringono sempre un po' più di noi, che invece andiamo sempre un po' più verso l'esterno, abbiamo un po' più di sottosterze. Per il mondiale sarò la persona più felice al mondo, perché comunque indossare la maglia della nazionale è sempre un piacere, se non dovessi andare nessun problema. Finisce qui il primo tempo. Convocati. Duello tra gufi e antigufi apertissimo, via messaggio 349-238-6666, 800-24-0024 se volete dire la vostra in diretta. Il paradosso è che intanto la Juventus a Lisbona ci è arrivata comunque 24 aprile, non 24 maggio che è la data della finale di Champions, però lo stadio è lo stesso, e ovviamente cambia la coppa, anche se ho l'impressione che, metabolizzato lo scetticismo iniziale, la Juventus abbia fissato questa Europa League oramai come un obiettivo importante, primario. Ringrazio Daniele da Milano che mi ha corretto: le prime tre nazioni del ranking UEFA vanno direttamente alla fase a gironi senza preliminare per le prime tre in classifica, solo la quarta fa il preliminare, dunque il Real Madrid non dovrà scegliere niente. Ha ragione Daniele da Milano, abbiamo sbagliato, c'è solo lui che non sbaglia mai. Parte Pirlo! Io sono rimasto impressionato nel leggere tweet della Juventus, 18% di percentuale realizzazione di Pirlo dei calci di punizione in questa stagione, 6 su 33 tentativi. Paolo da Cuneo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Impressionante, grazie per la votazione. Prego. Sì, mi sentite, sì. Niente, io volevo solo sottolineare un aspetto. Il Benfica credo sia, dati alla mano, la squadra che dopo la Juventus ha perso più finali europee. 5, tutte e due insieme, 5 finali europee di Champions League, in partita di Coppa dei Campioni, Champions League in particolare. Sì. Ecco, e il Benfica l'anno scorso ha perso anche ovviamente in Europa League. Non so se questo sia un dato. Sì, è un dato vero. C'è anche chi ha scritto 349-238-6666 è la semifinale delle sfigate d'Europa. Non so se sia vero, di sicuro una va in finale, Di sicuro uno va in finale e magari sfatta il tabù di essere la più sfigata, insomma, voglio dire. Speriamo che sia la Juve, essendo juventino, insomma, e non gufo comunque, speriamo che porti bene, ecco, in questo senso. Sicuramente la Juve però deve cambiare marcia rispetto a quello che si è visto ieri sera, perché come dice Pierluigi Pardo, amministra molto bene le partite o dà l'impressione di amministrarle bene, salvo quando però si guardano in faccia i giocatori e si vede che c'è una certa tensione, una certa ansia, una certa animosità, perché si sa che basta un gol degli avversari e sei fuori. Sì, anche a me non è piaciuta ieri sera la seconda metà del primo tempo, quella gestione della partita, di un risultato che non andava gestito, perché era pericoloso l'1-1, perché però, con un gol sarebbe passato il Lione, e perché soprattutto abbiamo visto anche ieri sera in Europa qualche gol evitabile, la Juventus lo prende, perché il gol di ieri sera era assolutamente evitabile, così come, lo ripeto, evitabili in autunno furono i gol del Galatasaray a Torino, quelli che di fatto hanno eliminato la Juventus. Antonio da Catania. Antonio. Buongiorno, buongiorno. Prego. Allora, io sono ovviamente un tifoso del Catania, ma anche un grosso tifoso interista. E sinceramente quelle chiacchiere da bar, fino a poco fa al bar, qualcuno diceva, ma io quando giocano le italiane in Europa tifo per le squadre italiane. Io no. No. Tifo assolutamente contro il Milan e contro la Juve da sempre, e non c'è niente di male. Non se ne vergogna. Non me ne vergogno affatto. Certo, se il Milan dovesse perdere con un rigore inesistente mi arrabbierei, ma se perde, guardi, una delle giornate più belle dopo la nascita di mia figlia è stato il Milan che ha perso la finale di Champions League 4-3 quando stava sul 3-0 alla fine del primo tempo. Ma cosa c'è di male in questo? Lei ha goduto quella sera? Ho goduto come un riccio, ho goduto. Allora sa cosa le faccio sentire? Le faccio sentire un tifoso speciale del Real Madrid, Thomas Ronsero, si chiama, in realtà è un giornalista. Ieri sera in una TV privata spagnola, godere per l'eliminazione del Barcellona dalla Champions League, spettacolare, eh? Estáis en la calle. Que vais a ver el resto de la Champions en el sillón de casa. Eso enteráis. El gran Barça, el plenipotenciario Barça, el Barça que deslumbraba, el Barça que enamoraba al mundo, el Barça de Messi y Neymar, el Barça que enamora a los niños, el Barça que es un ejemplo en el mundo, el Barça que era la releche en bote, en la calle. Oh, meraviglioso, perché poi i gufi non ci sono solo da noi. Thomas Ronsero e il Ciringuito. Enrico da Milano, sì, buon pomeriggio. Sì, buonasera. Io premetto che godere delle disgrazie altrui non fa per me, però capisco che questa è la cultura sportiva che c'è in Italia, andiamo avanti così. Il mio intervento era sul fatto dell'importanza dell'Europa League. Secondo me è molto importante, perché alla fine chi vince l'Europa League poi andrà a fare la finale Supercoppa a Monaco, al Principato di Monaco, contro la vincitrice della Coppa Campioni o della ex Coppa Campioni dell'Europa, della Champions League. E secondo me è una grandissima occasione per primeggiare in Europa. E poi un'altra cosa, secondo me Antonio Conte, credo che anche se dovesse giocare al 3-7 non vuole perdere, perciò non penso che abbia preso sotto gamba l'Europa League. Sì, mi sembra tra l'altro che Antonio Conte per primo abbia l'interesse a scrivere qualcosa di europeo nel suo palmarès. In fondo questa doppia eliminazione, non tanto quella dell'anno scorso quanto quella di quest'anno dalla Champions League, sono un po' una macchia in questo momento sul suo percorso, sulla sua carriera da allenatore. E poi a maggior ragione, insomma, la Juventus non alza un trofeo internazionale da 18 anni, cioè di cosa stiamo parlando? Per intenderci, lancio questa provocazione, ha molto più prestigio europeo l'Atletico Madrid della Juventus in questo momento. Grazie comunque Enrico. Proviamo a buttarci un po' su quello che succede nel fine settimana. Saluto Luca Valdiserri, Corriere della Sera. Ciao Luca. Pronto? Eccomi Luca, ciao. Perché domani è già campionato, Roma-Atalanta. Sì. Come hai trovato Rudy Garcia? Poi adesso lo facciamo sentire. Come l'hai trovato? No, bene, sereno, mi sembra che abbia usato anche il tono giusto, no? Dice non c'è un complotto contro la Roma, io penso che sia il modo migliore per affrontare le ultime partite di una stagione che comunque è stata straordinaria. Sì, mi sembrava che avesse voglia un po' di chiudere questa settimana di chiacchiere che è seguita a Cagliari-Roma, che ha accompagnato un po' tutto l'ambiente romano. Lo sentiamo Garcia, sul complotto anti-Roma. Già l'ho detto anche mercoledì, non c'è niente contro la Roma o per un'altra squadra, sicuro. Quello che mi piace di più è quando si parla di calcio, già l'ho detto, dopo la partita a Cagliari, quando un giocatore fa 3 gol in una partita, sentire parlare solo di questo episodio è triste, è solo questo che posso dire. perché dobbiamo mettere il calcio avanti, i grandi giocatori e squadre che fanno gol, che danno piacere ai tifosi, perché la natura del calcio è quella di segnare un gol di più dell'avversario per vincere e di fare in modo di dare gioia ai tifosi, fare spettacolo. Sì, si è parlato molto della vicenda destro, sicuramente ci sono delle cose che vanno sistemate nell'utilizzo della prova TV, si è parlato, Luca Valdisseri, secondo me anche a sproposito, io cito il presidente del CONI Malagò, secondo me il presidente del CONI sarebbe bene si astenesse da valutazioni da tifoso, poi sappiamo che lui è simpatizzante della Roma, ma ti sembra che il messaggio di Rudy Garcia, Luca, sia più rivolto all'interno o all'esterno? Questo, non esistono complotti contro la Roma, adesso è ora di pensare al campo. No, è rivolto a tutti, insomma, ma non Garcia sa che la sua squadra è forte, che ha ottenuto dei risultati con i fatti, non vede, è molto pragmatico, il motivo di caricare altre tensioni. Sul discorso di Malagò io non credo assolutamente che sia un discorso di tifo, credo sia un discorso di rapporti fra Federcalcio e CONI, e personalmente credo che comunque abbia ragione invece proprio Malagò a intervenire su un mondo come quello del calcio che vive al di fuori delle regole, se le fa da solo, e non so, per esempio, magari non è un argomento eccessivamente radiofonico, ma mi preoccupa di più l'intervento ieri di Abete sulle regole, sulla decadenza eventuale del presidente Lotito, insomma, no? Sì, altra vicenda che si trascina da tempo in memore. Sottolineavo solo che il presidente del CONI ha altri canali, invece che rischiare di fare la figura del tifoso giallorosso che dice ma non capisco perché destro sia stato squalificato, se effettivamente, come in tanti hanno sottolineato, può esserci stata qualche incongruenza nell'applicazione di questa prova TV, il presidente del CONI non è il tifoso da Basporta, ha altri canali per farsi sentire e per chiedere alla Federcalcio di allinearsi. Il canale mediatico in Italia è sempre quello più sì, più diretto anche quello che arriva più facilmente. Naturalmente poi noi giornalisti ci prendiamo anche le colpe, perché no, siamo sempre quelli che capiscono male, fraintendono eccetera, però poi quando serve far passare un messaggio ci vengono a cercare. Che Roma vediamo domani con l'Atalanta, mi pare di aver capito che Totti gioca. Sì, si è allenato, per cui in una situazione di estrema emergenza, perché comunque mancano 3 squalificati, qualcuno non sta bene, la Roma non, in questo momento non può fare a meno di Totti. Poi naturalmente se non dovesse essere al 100% con la squalifica di destro, sicuramente ti richiede ancora più attenzione, no? Però domani Atalanta è una squadra, secondo me, la vera, insieme al Parma, la vera grande rivelazione del campionato, sia per la qualità del gioco, per i risultati ottenuti, per cui se Totti sta anche al 75-80% credo sia necessario schierarlo. Sì, oltre a destro mancheranno Pjanic e Florenzi squalificati, mancherà Benatia infortunato, mancherà per un mese Strootman infortunato, mancherà Torosidis, poi facci capire se Maicon invece che era dato in dubbio ha recuperato. Penso di sì. Però certamente l'Atalanta è un avversario scomodo, forse anche per questo mi sembra che oggi Garcia abbia mandato dei segnali abbastanza interessanti su quella che può essere la prospettiva della Roma in questo campionato. Ti faccio sentire 2 frammenti, questo è il primo. Giochiamo solo per vincere, se vinciamo tanto, se abbiamo più punti della storia della Roma, vedremo se è il caso, ma sarà bene, ma quello che sarà bene è raggiungere un posto più alto, che per il momento il secondo, già l'ho detto, è l'unico posto che possiamo difendere. È l'unico posto che possiamo attaccare, il primo, ma non dipende da noi. Non dipende da noi, non dipende dalla Roma, dipende invece dalla Juventus. Però la verità è che sabato sera la Roma può andare a dormire ancora a 5 punti di distacco dalla Juventus, cioè la situazione di una settimana fa. E allora Garcia ha parlato di campionato che non è ancora chiuso. Ho sentito prima, diciamo, dopo partita a Cagliari, il fatto di essere a meno 5, ho sentito la corsa allo scudetto è aperta, e dopo la partita della Juve era chiusa. Non è così. È sicuro che quando il campionato va avanti, che siamo quasi alla fine, quando passa una giornata che lo scarto non cambia, è a favore della squadra che è in alto. Lo vediamo con il Napoli, per noi per esempio. Ma può cambiare tante le cose. Vinciamo domani sera e voi farete in modo di aprire di nuovo questa corsa, e vedremo quello che succede per la Juve. È così ogni giornata. Sì, non c'è dubbio, Luca, che se la Roma va a meno 5 noi riapriremo la corsa a scudetto, da buoni giornalisti che siamo. Secondo te quanto ci crede Garcia? Nello scudetto ci crede molto poco, ma nella necessità di far crescere una squadra per cui ogni partita è importante ci crede tanto, per cui ha ragione lui a dire che lo scudetto è ancora possibile, anche se magari ci si tiene un 5%, che ne so, un 2%. Sì, diciamo che danno un'occhiata al calendario della Juve, se c'è un momento in cui si può pensare di sperare è questo fine settimana con la trasferta di Udine, perché poi c'è Juve Sassuolo, insomma, però, poi è complicato. A parte che la Roma col Sassuolo ha pareggiato al 94esimo, per cui non si può mai... Sì, gli scudetti sapere, si perdono lì, più, esatto, più che negli scontri diretti. Però la Roma non deve fare un calcolo... Nessuno dava la Roma nemmeno nelle prime tre all'inizio del campionato, no? Se andiamo a riprendere tutti i pronostici, se ce n'è qualcuno che ha messo la Roma nelle prime tre, mi richiami e gli faccio un applauso. Per cui non può essere quella l'idea. L'idea è crescere ancora con questa squadra, e se arrivi secondo a 12 punti o se arrivi secondo a 3 punti non è la stessa cosa, perché tu e i tuoi giocatori per tutta l'estate potrei dire: allora, rispetto alla Juve a noi ci manca una partita, la vogliamo costruire insieme questa piccola distanza, vogliamo fare un allenamento in più, vogliamo fare uno sforzo in più. Se arrivi a 15 punti è difficile poi dire in pochi mesi che colmiamo questo gap, per cui sicuramente per lui è importante vincerle tutte, vincere lo scontro diretto anche se non dovesse essere più decisivo per lo scudetto. Sta già allenando in vista della prossima stagione, la prossima Roma. Per questo Garcia è secondo me la vera rivelazione a livello dei allenatori di questa stagione. Grazie a Luca Valdiserri. A presto. Grazie a Luca Valdiserri, Corriere della Sera. Da Juventino ho vissuto tante gioie, oltre alle nostre vittorie. Tra i momenti di massima gioia ci metto Milan-Liverpool 3-3. Milan-Liverpool 3-3 è in cima, tra le citazioni dei nostri gufi, al 349-238-6666. Poi c'è Beppe Gufo interista 1-100-1000 Wolfgang Felix Magat, quindi ricorda l'Amburgo. Ce ne sono tanti, anche i juventini che hanno gufato gli altri. Antonio da Treviso. Antonio, buongiorno. Buon pomeriggio. La voce però appena finito di tagliare l'erba in giardino, quindi beato lei. Antonio, prego. No, niente, io potrei cambiare argomento. Può fare quello che vuole. Senti, io volevo parlare del problema degli oriundi naturalizzati, soprattutto nel basket. Sì. Cioè, io posso capire, io ho giocato anche allenato giovanili, io posso capire che un ragazzino, diciamo, extracomunitario che mi faccia tutti i livelli dei giovanili venga considerato italiano perché fa parte del gioco della scuola italiana. Ma prendo un esempio tipo Diner, che ha giocato in nazionale solo perché la moglie aveva la nonna italiana, mi sembra un attimino tirare per i capelli la naturalizzazione. Sì, lei ha ragione, Antonio, io sono d'accordo con lei. Negli europei di basket avere un giocatore di colore con il passaporto macedone, cioè se mi dicono che un nero è oriundo macedone. Sì, ma non è tanto il problema, scusi Antonio, del colore della pelle, perché dobbiamo abituarci, ci saranno anche persone che vengono da altri continenti, di seconda, di terza generazione, che poi saranno italiani, macedoni, tedeschi, a tutti gli effetti. Il problema è, e mi sembra anche nel basket, soprattutto nel basket, che queste regole stiano favorendo anche un mercato di questi passaporti, e in un certo senso si stia perdendo un po' il senso. A proposito di oriundi e di italianizzati, Jonathan sta ancora sperando in una chiamata mondiale da Prandelli. fino a che non succede la convocazione io ti credo, per cui sto lavorando bene, se c'è la possibilità di andare non c'è perché non credere in questo, no? Lo so che è difficile, però la speranza io ce l'ho sempre. A voi piacerebbe Jonathan, nazionale italiano convocato per il mondiale del Brasile, che è il suo paese di origine? Non lo so, se volete dirmelo, 800 24 00 24. Tra l'altro dobbiamo aspettare ancora qualche ora per avere la lista dei 40, cioè gli azzurri che andranno a fare i test fisici di settimana prossima. In realtà saranno 35, perché quelli che giocano nei campionati stranieri faranno prossimamente, così come Mattia Destro, che viene escluso per il codice etico. Pare di capire che non ci saranno i grandi vecchi, quindi Di Natale, quindi Totti e anche Toni, che però dall'alto dei suoi 16 gol, mi sembra anche legittimamente, sta continuando a candidarsi. Sentiamolo ieri. Se andrò al mondiale sarò la persona più felice al mondo, perché comunque indossare la maglia della nazionale è sempre un piacere, però se non dovessi andare nessun problema, quindi non, sinceramente conta poco il mondiale o non il mondiale. Come ho detto la scorsa domenica, se ci credono giocatori che hanno fatto molto meno di me è giusto che ci possa credere anch'io, poi se andrò bene, se non andrò farò il tifo per l'Italia. No, ad oggi il Borsino 5 maglie in attacco: Balotelli, Cerci, Girardino, Sicure, poi uno fra Rossi e Cassano, e vedremo intanto se tutti e due saranno chiamati per i test fisici. E poi balla una maglia, dovrebbe essere di Mattia Destro, forse di Immobile, forse di Osvaldo, deciderà il finale di questa stagione. 800 24 00 24 Borsa. Adesso è l'appuntamento con la Borsa. La Borsa c'è, ci sentiamo tra poco. Convocati. Tanto abbiamo trovato il tifoso che aveva pronosticato prima del campionato la Roma seconda. È Alberto, ci ha scritto 349-238-6666, Roma seconda, e avevo i testimoni, però l'avevo pronosticata seconda dietro al Napoli, che purtroppo è finito terzo. Poi c'è chi dice Immobile, Destro, Toni e Cassano meritano tutti la convocazione, ma se Prandelli convoca Osvaldo, tifo il Brasile. Osvaldo ha fallito in tutte le squadre dove è andato, Gianni da Verona. Poi ancora la prima Juve di Conte ha vinto lo scudetto, si è detto perché non giocava le coppe, la Roma quest'anno non le faceva ma ha perso proprio i punti nelle settimane in cui la Juve giocava in Europa. E questa è una riflessione interessante, perché Rudy Garcia sta allenando la Roma anche per la prossima stagione, che sarà una stagione per la Roma profondamente diversa da questa, perché ci sarà l'impegno della Champions League. Prossima stagione che avrà invece tra i protagonisti del motomondiale ancora Valentino Rossi. Saluto Graziano, papà di Valentino. Ciao Graziano. Ciao, buongiorno, buongiorno. Questa mattina mi si è allargato il cuore leggendo i giornali. Vale continua, ho deciso, resto, spero con la Yamaha. Mi pare di aver capito, addirittura spera di arrivare a 40 anni. Aiutaci a capirlo. Magari 40 sono tanti, però... No, lui ha detto che un pilota di moto potrebbe essere competitivo fino anche a 40 anni, ma non ha detto che questo sarà necessariamente lui. Può darsi che sia lui, ma può darsi anche che lui cambi prima qualche cosa. Non è detto. Se le cose dovessero andare come sono andate la prima gara, e con la passione che lui ha per la moto, sicuramente lui arriverebbe fino a 40 anni, però bisogna fare risultati tali da divertirsi molto. Gli è tornata la voglia, ho avuto anch'io questa impressione in quella bagarre che è stata la prima gara della stagione, sì. Che speriamo si ripeta anche in questo fine settimana ad Austin in Texas, sì. Perché è stata altamente spettacolare e perché ha fatto riemergere il pilota finalmente. Sì, diciamo che lui ha la grande fortuna di fare sempre delle gare spettacolose quando è competitivo, no? Di fare sempre un sacco di spettacolo, perché lui è un pilota che cerca il confronto con gli altri. Adesso, avendo trovato un altro pilota che come lui cerca il confronto con gli altri più che sfuggirlo, che quest'altro pilota, naturalmente parlo di Marquez, no? Adesso, se dovesse Valentino essere competitivo per tutta la stagione, sarebbero scintille, sarebbe un grande spettacolo, io spero. Sì, mi è sembrato molto fiducioso Valentino. Poi visto attenzione, non ho detto una cosa. Lorenzo, attenzione, naturalmente Lorenzo sarà insieme a loro e naturalmente Pedrosa sarà insieme a loro. Ecco, questi non dimentichiamoli assolutamente. Sì, va bene le nuove regole, ma alla fine dovremmo riuscire a ritrovare i quattro più forti sulle moto più forti lì a giocarsi gare mondiale. Perché non arrivi qualcun altro a entrare nel gruppo dei quattro più forti? Perché hai visto questa. Ma ti sono piaciute le nuove regole o no? Ti sono piaciute? Questo nuovo regolamento potrebbe anche permettere a qualcun altro di trovare un mezzo competitivo per entrare nel gruppo dei quattro, e anche qualche altro pilota potrebbe crescere al punto di entrare nel gruppo dei quattro. Ma ti è piaciuta questa nuova MotoGP? Sì, alla fine è venuta fuori una bella cosa e temevamo un po' tutti che non, così non sarebbe stato. Invece è piaciuta soprattutto a tutti i piloti, a tutto il pubblico, e quindi Spalletti ha fatto una grande manovra e ne sta facendo ancora, insomma. Sì, quello che non è riuscito invece a chi comanda la Formula 1, dove al di là del duello che abbiamo visto tra Hamilton e Rosberg nell'ultima domenica, c'è tanta noia e c'è soprattutto una macchina, in quel caso la Mercedes, che ha preso il posto della Red Bull, va più forte di tutte le altre per distacco, e la stagione è più o meno finita qui, anche se oggi Domenicali e Montezemolo hanno promesso che faranno di tutto per riportare la Ferrari ad essere competitiva. Leggo Valentino Rossi: l'anno scorso Austin fu la gara peggiore, ora però è cambiato tutto, se faccio bene lì e faccio bene pure in Argentina, puntini puntini puntini di sospensione, cosa hai in testa? Cioè, hai in testa che si può tornare a vincere il mondiale? Io penso di no. Ha in testa che si può fare con, come dicevamo prima, insieme a Marquez, insieme a Lorenzo, anche insieme a Pedrosa, un campionato da protagonista, che vuol dire ad ogni gara partire per vincere, cosa che non era possibile negli ultimi 3 anni. Quindi il colpo di spugna dato alla prima gara che ha cancellato gli ultimi 3 anni, lui spera con queste parole che gare come la prima si possono ripetere da quella di questo fine settimana in avanti, al punto da essere competitivo per vincere le gare. Poi naturalmente il campionato del mondo è sempre una conseguenza di quello che si fa gara per gara. Lui quello sicuramente non lo dimentica mai, ecco. A fine stagione resta in Yamaha, poi ti saluto. Credo assolutamente sì, senz'altro sì, perché la Yamaha è la sua fidanzata vera, poi l'ha lasciata, poi si sono persi, poi si sono ritrovati, però la Yamaha è la sua fidanzata vera, quella delle emozioni. Sì, poi meglio evitare salti nel buio, perché di stagioni buttate alle spalle purtroppo ne abbiamo già vissute. Grazie Graziano. Hai detto bene, grazie, buon fine settimana. Anche a te, lo ricordo, gara di Austin domenica alle 21, sentiamolo Valentino Rossi. Ma ho deciso che fino a quando posso e potrò correrò in moto, poi poi vedrò. Direi addio alla MotoGP oppure rinnoverai? Penso che rinnoverò con la Yamaha. Pensa che rinnoverà con la Yamaha, ho 35 anni, Colin Edwards è arrivato a 40, chissà, c'è tempo. Umberto da Treviso, Umberto. Buongiorno, buongiorno. Buonasera. Prego. Premetto una cosa, che non sono tifoso di nessuna squadra. Sì. E vorrei riprendere l'argomento di quel giocatore della Roma, destro mi pare. Sì. Che ha mollato un bel sinistro a quel giocatore del Cagliari. Sì. Ecco, io penso che le giornate di squalifica siano anche poche. Io però penso, Umberto, che ti sento male. Vediamo se riusciamo. Prego, Umberto. Mi sente bene? Sì, dica. Ecco, penso che le giornate di squalifica siano anche poche, perché un gesto antisportivo come quello che ha fatto meriterebbe più severità. Perché anche dopo aver colpito il giocatore, dopo ha simulato anche di essere stato colpito a sua volta, quindi doppiamente andava punito. Sì, ma io credo, Umberto, che non sia in discussione questo, ma noi l'abbiamo detto anche domenica in presa diretta, pochi minuti dopo, c'era un pugno che poi in realtà è stata una manata, c'era un comportamento che doveva essere sanzionato con il cartellino rosso, c'è stato l'errore dell'arbitro che chissà che cosa ha visto. Semmai quello che si discute è che cosa è successo dopo con la prova TV, e lì secondo me non ha torto chi sottolinea che probabilmente è stata un po' forzata l'interpretazione della norma per arrivare alla squalifica di Destro. Vediamo anche cosa deciderà settimana prossima la Corte di Giustizia della Federcalcio. Io non mi stupirei che intervenisse nuovamente, perché qualcuno ha parlato di Moviola, non so se si sia trattato di Moviola. Di sicuro è non un unico caso, perché qualche precedente c'è, ma è il caso in cui si è intervenuto su un'azione di gioco che era già stata valutata da un direttore di gara. Claudio dalla provincia di Chieti. Claudio. Sì, salve, buonasera. Buonasera, prego. So che queste parole faranno male a molte persone, però la realtà è questa, che a livello di arbitri vanno sempre gli stessi in Brasile o in Germania o in Argentina, sono quelli che fanno i favori, sono quelli che poi in Europa danno i rigori come ieri. Vedi Rizzoli, vedi Rocchi, vedi tutte le prestazioni, sì, dei Rocchi arbitri. Non va al mondiale, Rocchi non è che ci sta provando, non ci va, perché la lista è chiusa, per l'Italia ci andrà Rizzoli, però prego Claudio. Di lui a favore della Juve, e questo è papale, guardi, è inutile che parlate senza riflettere. La Juve ha avuto dei vantaggi di 5-6 partiti, la Roma sta facendo un campionato bellissimo, non possiamo dire che la Roma non è al suo livello. Chi ha detto che la Roma non ha fatto un campionato bellissimo, Claudio, scusa? Ecco, la Juve purtroppo è stata aiutata, volendo o non volente, sempre quel piccolo gol contro il Genova, contro il Torino, contro l'Atalanta, contro il Cagliari, sempre quelle piccole condizioni di favore, quelle punizioni dal limite, tutti quei vantaggi che oramai stanno stufando. Abbiamo gli stadi vuoti, Claudio, io ti faccio rispondere da Garcia. Ha detto non c'è un complotto, non c'è niente contro la Roma in questa stagione, nulla che giustifichi, c'è qualche errore secondo me quest'anno fisiologico, cioè nell'ambito del livello per cui una serie di errori o un errore può essere accettato, gli ha avuti la Juventus, li ha avuti anche la Roma in realtà, Claudio, traffico. Tutti convocati. Tanto scrive un amico, mi dite a che ora sono le partite di Europa League della Juventus, Floriano, sono alle 21:05, anzi, perché quello è l'orario, così come per i quarti di finale di tutte le semifinali. Poi c'è chi scrive, l'unica volta che alcuni giocatori possono rifiatare ci sono i test fisici della nazionale, poi ci lamentiamo se i giocatori arrivano cotti a fine stagione, però questo è un accordo, era una cosa che era stata chiesta da Prandelli, concessa dai club. Prandelli ha garantito che per 2 giorni non toccheranno il pallone, si tratta soltanto di fare una serie di test fisici, perché ha detto in Brasile bisognerà portare prima atleti e poi calciatori, viste le condizioni anche estreme in alcuni casi che l'Italia si troverà ad affrontare, soprattutto nel girone, a partire dalla gara con l'Inghilterra a Manaus, nella foresta con un clima difficile. A proposito di clima difficile, di cose difficili, mi sembra e mi risulta non si sia ancora ricomposto il dissidio tra De Laurentiis e il tifoso del Napoli che l'ha contestato a Parma. Si scusi perlomeno con quel povero tifoso, si scusi con quel povero tifoso. Già ci siamo pentiti, già ci siamo scusati. Ma no, quello ha detto non è vero. Ha detto una falsità. È pentito almeno di questa cosa. Ma io sono una persona che quando si pente, si pente. E in questo caso si è pentito? Ma anche lui si deve pentire, perché... Ma che ha fatto quello? L'ha soltanto criticata. No, siamo stati due tifosi che si sono confrontati. Ma lei è un presidente però. No, io quando esco dallo stadio sono un tifoso. Ma dove si è mai visto però un presidente che mette le mani addosso a un tifoso? Ma io sono unico. Però si pente almeno. Non lo farà mai più. Sono pentito. Prometto, non metterò mai più le mani addosso a un tifoso. E questo vedremo. Questo vedremo, questo era De Laurentiis, le prese col moralizzatore delle Iene. Saluto Pier Augusto Stagi, ciao Pier. Ciao. ciao Giovanni. Hanno strongato le prese con i moralizzatori di tutto il mondo. Leggo oggi dai giornali italiani le rivelazioni ieri di USA Today. Armstrong ha votato il sacco, ha fatto i nomi, Johan Bruinel, Michele Ferrari, altri nomi importanti per quell'inchiesta, di secondo piano per chi conosce meno le logiche del ciclismo. Io voglio capire se si arriverà mai a un punto, se c'è qualcosa di nuovo di quello che è stato scoperto ieri. No, di nuovo no, verrà fuori, verrà certificato dalla giustizia ordinaria americana ciò che si è sempre, ormai è venuto fuori. Sì, si è recentemente appurato. Esatto, però è stato ratificato da un tribunale che c'era un sistema, che erano in tanti a sapere, che il suo team manager Johan Bruinel era al corrente delle pratiche illecite, che Michele Ferrari, il mister mito, era al corrente anche lui, se non addirittura primo attore, di tutta questa vicenda. E quindi noi un anno fa abbiamo capito che Armstrong ci aveva ingannato, un anno di distanza stiamo per sapere che in realtà c'era appunto un sistema ben organizzato, ben alleato, e quel che è ancora peggio, che era appoggiato e assistito dal governo mondiale della bicicletta. Questo è ancora più grave ed è ancora più doloroso per il mondo del ciclismo, sapere che le istituzioni, sì, chi doveva controllare, chiudevano gli occhi di fronte, ha omesso il suo compito. Quantomeno ha omesso, se non peggio. Armstrong sta parlando, mi pare di aver capito, perché è sotterrato dalle richieste di risarcimento, quindi è anche presumibile che non si fermi qui. No, assolutamente, tutto è partito, ricordiamoci che la vicenda Armstrong è partita non per una questione di giustizia sportiva, perché il mondo della bicicletta e del ciclismo in particolare voleva rifarsi una verginità. Tutto è partito perché lui ha firmato dei contratti molto rigorosi e molto rigidi, e a fronte di alcuni libri che sono usciti, in modo particolare il primo, che accusava Armstrong di pratiche doping e di un sistema doping, sono partite appunto delle azioni di risarcimento da parte della, a cominciare dalla West Postal, che era la squadra, le poste statali americane che sponsorizzavano il corridore texano, e li ha cascato a tutti. Quindi parla non per convinzione ma per interesse, in questa fase si sta difendendo e quindi ha bisogno di chiarire. Non può giurare e poi dire il falso, perché a quel punto la giustizia americana è non severa di più e rischierebbe veramente anni e anni di galera, quindi deve per forza dire il vero. Pier, abbiamo un paio di minuti, anche meno. Domenica c'è la Roubaix, mi dici se abbiamo speranze in questa campagna fin qui disastrosa degli italiani nelle grandi classiche? Guarda, la Roubaix è già una corsa per pochi eletti, e quindi già gli italiani hanno finita l'era, diciamo, dei Francesco Moser o di Andrea Tafi, che è stato l'ultimo a vincerlo, insieme o Alessandro Ballan, che ha ottenuto 3 podi in questa, nella regina delle classiche. Ancor meno ce ne abbiamo domenica. Certo, felicissimo di essere smentito, però tutto lascia pensare che questa corsa, che è una corsa atipica, è la corsa forse più anacronistica per il mondo del ciclismo, è la corsa più folle che ci sia, perché devi essere molto forte ma anche molto fortunato per non incappare in cadute o in forature. È il favorito numero uno, dobbiamo accontentarci di uno italo-svizzero, che è Fabian Cancellara, che con ogni probabilità andrà, sì, a vincere ci rassegniamo a tifare lui, quindi, in mancanza di materia prima. Lui. Grazie e Pier. Quindi tifiamo lui. Grazie Pier Augusto Staggi. L'appuntamento, noi ci fermiamo, l'appuntamento è per domenica a partire dalle ore 17. Racconteremo anche la Parigi-Roubaix, vivremo la vigilia del Gran Premio di Austin della MotoGP, vi racconteremo che cosa è successo nel calcio e che cosa starà ancora per succedere. Io ringrazio Franco Piantini da Giorgio De Luca, autori di questa puntata, Roby Scaltritti in regia, un saluto anche da Giovanni Capuano, ciao. Allora, un'icona della pallavolo italiana, Andrea Giani. Ciao, ciao Andrea, buongiorno. Ciao. In molti siete diventati allenatori e allenatori di al massimo livello possibile. Da una parte c'è un gruppo di atleti che ha una grandissima passione, perché smettere di giocare ed allenare devi avere tantissime risorse da investire. Hai dato per tantissimi anni e devi continuare a dare. Non è facile, questo dimostra che abbiamo dentro veramente tanto ancora da giocare, da fare. Ciao Corrado Barazzuti. Ciao. Fognini è un giocatore che è il numero 13 del mondo in questo momento, è ancora in miglioramento, ancora in crescita, per cui credo che certamente potrà fare bene, forse mi auguro che possa anche fare meglio di quello che ho fatto io, di quello che ha fatto Panatta. Certamente Fognini è un giocatore che ha un grande talento, un grande potenziale. Pronto? Poz, sei in radio, lo porta di bene, eh? C'è De Paul qui. Ciao Poz. Abbiamo un ricordo bellissimo dei capelli di De Paul. Cosa vinci quest'anno? Niente, come al solito. Sì. Alessandro De Paul, quando dopo l'europeo era uno dei giocatori più richiesti d'Europa, perché non è andato al Real Madrid? Per la parabola, perché non gli davano la parabola di Sky. Alessandro De Paul, perché non sei andato al Real Madrid? Perché sono scemo. Era sempre Real Madrid, ma mi dava più affidamento, ecco, rimanere in Italia, rimanere a Roma, ripeto, che aveva un progetto importantissimo. Giuseppe, che pari è adesso? Ma io sono a Monopoli. Scusa questa digressione, come vivete questa cosa che c'è? Lo so, diciamo, perché quello... la città è famosa, ma è più famoso il gioco, cioè come se uno abitasse a Risico. Lo so, Pierluigi, immagina che... A Parco della Vittoria? Viale dei Giardini. No. Io sono a Vicolo Stretto, sempre quello. Vicolo Stretto. Concludo ricordandovi che la nostra trasmissione va in onda alla stessa ora ogni settimana, lo stesso giorno, la stessa ora, la stessa rete, bello, eh?